da me. Ho due occhi di stelle che brillano solo per me. Ho un telefono sempre vicino che parla di lei. Passo il tempo aspettando altro tempo che torni da me. Qui da me c'è una musica senza parole che parla di me. C'è un bel sole qui dentro la stanza che scalda le idee. Passo il tempo correndo più forte del tempo che c'è. Vivere ma non sentire mai questi anni che trascorrono, i giorni si assomigliano. Chiudersi nel buio. C'è una lista di uomini piccoli come un bignè. Guardi il cielo che senza colore ti chiedi perché. Passi il tempo col fiato sospeso pensando un po' a me. Lì da te giorno che passa la nuvola che se ne va, il tuo angelo ti custodisce la serenità. Passa il tempo e ti senti più forte di te. Vivere ma non sentire mai questi anni che trascorrono, i giorni si assomigliano. Perdersi nel buio dell'anima. Qui da me c'è un deserto di anime in pena di piccoli eroi. Una musica dentro la testa che viaggia con me. Guardo il tempo affondare nel tempo che aspetto con te. Qui da noi una pioggia cancella le tracce dell'ultimo dia.